386. Sformato di fagiolini. Prendete grammi 500 di fagiolini ben teneri e levate loro le punte e il filo se l'hanno. Gettateli nell'acqua bollente con un pizzico di sale ed appena avranno ripreso il bollore, levateli asciutti e buttateli nell'acqua fresca. Se avete sugo di carne, tirateli a sapore con questo e col burro, se no fate un soffritto con un quarto di cipolla, alcune foglie di prezzemolo, un pezzo di sedano e olio e quando la cipolla avrà preso colore buttate giù i fagiolini condendoli con sale e pepe e tirandoli a cottura con un po' d'acqua se occorre. Preparate una balsamella con grammi 30 di burro, una cucchiaiata scarsa di farina e 2 decilitri di latte. Con questa, con un pugno di parmigiano grattato e con 4 uova frullate, legate i detti fagiolini già ghiacciati, mescolate e versate il composto in uno stampo liscio imburrato prima e il cui fondo sia coperto di un foglio. Cuocetelo al fuoco o a bagnomaria e servitelo caldo.